questo c'è. No, ce l'ho io. Questo è il vecchio, l'ho cambiato l'altro giorno, sembra che stava andando bene. Ogni tanto fa questo gracchiare, ho capito perché. Risolto il problema dell'antenna. C'è un'attrezzatura per fare cose o che mi auguro stare facendo, non viene bene. Sto guardando sto microfono, ce l'ho. Quello che danno i malati, proprio, alla vaniglia e buco. collo al telefono. Genio. E oggi. Facendo roba e avevo l'altro acceso, vi sento parlare, dai. E non ho sentito come è uscito, però non so se ci sia Eugenio qua. Ciao Marco. Ciao già. Poi la mandronia prevale, ma io presto forse ce la faccio passare anche stasera, vabbè, non c'è problema. Sono bene a casa, ti dico la cosa. Caffè fumante voglio, Ne avrai due, non c'è problema. Troppo dopo già. Se vuoi, guarda, sto facendo anche i funghi, sto cucinando. Se vuoi mangiare i funghi a casa, non c'è problema. Dì, va, vediamo quello, dai. Le prendi, Similia? Cioè rispetto a prima come usciva, che sembrava un vecchio, ha migliorato, sì. A 3,5, minchia. Con gli M1000, cavolo, quelle Midland che c'ha da fare, una bomba, La radio limpidissima e forte, bella, limpida, limpida, limpida. Me l'ha fatta ascoltare stasera, quelle Midland da fare, con quel microfono esce di una meraviglia. Cava. Anche la Intec fuori fa aveva microfoni da tavolo, anni 80, anni 90, anzi fine anni 80 e poi. Ti ricordi già? Quelli neri, quelli allo sciure, a quello sciure, non so se ce l'hai presente, dai. Certo, me ne ricordo, fino a 2 giorni fa ce l'avevo, dai, l'ho venduto, c'era 2 giorni fa. E come andava? Ma con bomba, con la verità, perché ce l'avevo già il microfono, che avevo poi, ma non messo. Ci stava la marca, perché ci mette 50.000 cose quando non ci sta. E la Intec aveva anche aveva anche importato il microfono Leson, non so se te lo ricordi, Leson, mi pare che era un barrasone, aveva una base bella grande, e lo stesso la testa al microfono dove c'è la capsula era grande. Poi non so come uscisse, a vederlo era un po' troppo grande mi sembrava. Ah, Leson ce n'era uno da quello che vende roba usata, eccetera, eccetera, di fronte a Cina. Dalla piazzetta lì, no? Dietro. E era attaccato a un baracchino, c'era un baracchino piccolo di quelli vintage che hanno solo volume, squelce e basta. E praticamente lo stavo dicendo, frequenta a casa d'altro, capivo e ce l'ha comprato. E quindi da Palma, quindi da Palma, ce l'ha comprato lui, ma c'è quanto usciva forte. È una cosa allucinante. Io non l'ho preso perché c'aveva praticamente la struttura che era stata rovinata, si è ammassicata, non mi è piaciuto, l'ho preso per questo. Lui dice che se l'ha tutto restaurato, l'ha fatto bello, l'ha riverniciato. Buonasera a todos, io ero al telefono, ciao a chi è entrato. Buonasera. Per il momento sei entrato tu, poi ci c'è Massimiliano, io e Marco Conto, detto anche andata a pugnare. Vabbè, ma c'era Eugenio, io ero con Eugenio e poi mi hanno chiamato al telefono. Ciao Massimiliano, ciao Marco, ciao Gianni e ciao anche Eugenio se c'è. Avanti Massimiliano. Gappa, 380 buisci. Cos'è questa, cos'è Gianni? Cos'è che era masticato? Il microfono, quello che c'ha per fare, quello che usa. Se si è comprato K2, così io l'avevo detto, cioè questo è arrivato, quello che bisogna imparare. Ma ho preso perché era tutto quanto rovinato, il coso dietro, era bucato, c'aveva un buco, non era masticato, c'aveva un buco, e avevano trapassato con la vite, che era più parte della porzione a vite, di quelle lunghe lunghe, ha trapassato anche il coperchio. E lui ce l'ha tutto restaurato, ce l'aveva restaurato con la resina, e quello ce l'ha riverniciato, l'ha fatto nuovo, non è uscito a forte, era potente. Gianni, però il Leson che dico io era da tavolo, eh? Sì, ma c'è anche da palma, Marco. C'è anche da palma, ma l'ho letto io, Leson, tutto ce l'ha scritto lui. Via. Claudio, non so se lo conosca, lo importava la Intec, microfono da tavolo Leson. Aveva la, mi pare, la capsula squadrata, diciamo, no? Però non so come andasse. Poi è sparito subito, l'hanno portato per un catalogo, poi è sparito. Ma quello flessibile sei ceduto? Non mi ricordo com'era, se era flessibile o... Nello suo catalogo dell'85 addirittura, se non sbaglio, Però c'è un catalogo dove ci sono tutti i connettori possibili e immaginabili della 26. Io invece c'ho il catalogo, capito? Dove c'ho il catalogo delle pantane. Tutte le pantane ci sono, capito? Nel mio catalogo. Avanti Massimiliano. E nel tuo catalogo cosa c'è? Catalogo, lo conosco, io chi non ha avuto quello. Peccato che non li fanno più, mi pare. Oh signori, è arrivata la pappa, dai. Gianni, se posso passo da te, però t'avverto. Prendete voi, dai. Bene, buona carica. Quindi fatti trovare pronto, già, nudo e scappellato. Va bene, ce l'ha fatto. Tu entra in Tiparu. Per carità, questa nostra pignata, che rimane in classe. Che ore sono? Che ore si sono fatte? Io proprio ho fatto il record. Si è proprio un pezzato. Sì, è mezza, aspetta, ma c'è il cane. Datemi un minuto, meno di un secondo, arrivo subito. Claudio, se per quelli saranno i croccantini? Sì, quasi non ne ho più, quasi finiti sono. Ce ne saranno, 5 kg neanche. Ma hai preso quello piccolo? No, ci ho pigliato un mese prima di te, io. Quello da 20, da quant'è? Che ce l'ho da 18 kg. E c'era quello a 18 anche lui allora, però adesso prendo quello più grande già. Ma io ce l'ho poi di tutto io, Fabio, ti sto dicendo che ha consumato pochissimo. perché io glielo mischio, mi metto quello lì e quello al pesce della moscia. No, io mangio un sacco di troppo, se no lo vedi troppo, lui mangia solo quello e buco. E quindi sa, mangiando a pranzo a cena, mangiano a pranzo a cena tutti i giorni, però c'è il risparmio, va, capito? Aspetta che io lo poverino, va. Vedo un mito, se non lo sveglio io, manca a mangiare, ce ne alza questo fischio, non te mandrone. Riprendi Massimi. E anche che si deve mangiare i vocchi, se lo state a mangiare. Sai che non si danno tutti a giocare in casa. Sì, non scherzare, c'era un signore che mi ha detto che faceva il signore Alberto. Se l'ha preso il vecchiaio, la cosa, dice però lì da proprio molti luci, ce l'ha, questo, quell'altro, ma tu, c'è cara di Antonio, non ricordo come è diventato cieco, più direttamente. Ed era un bel male, perché era più brutto che se stava addossato, doveva chiuderlo dentro, non dico che non aveva fatto una casa perché si avventava. Sì, più o meno io li faccio, allora li faccio il pastone, aspetta, la pasta per carne, quella verde, gialla e arancione, che vengono anche da Russia. Un po' li metto, una fettina di petto di pollo, di cavallo, oppure carne macinata di cavallo, anche fegatini qualche volta, fegatini di pollo. E poi li metto in mezzo alle crocchette, le metto al pesce e si mangia tutto, si mangia tutto. Cena che a pranzo. E a volte vedi, io gli ho fatto sentire solo per lui, però un tacchino, una cuscia di tacchino con la pentola a pressione, però senza sale e solo acqua, non gli ho messo il condimento. Ma sai come ti l'ha mangiato? Ma anche lui, cazzo, una coscia è grande, non ha manco un visto. Chi te l'ha detto che mi sta pagando, eh? Chi te l'ha detto? Cos'è Yorkshire? Ah, bello, che colore è? Ah, come il mio è color cilindro. Ho visto da un minuto. Perché non ci credevo, non ci vediamo. Ma che una bella riga, sì, vabbè, quello lì è un male di tutti. Adesso ti devo dire che sia attento, adesso ho sdraiato la letto più vicino a me. Dimmi come sopra, io adesso dopo l'ho porto, cazzo si chiama, non ti ha guardato. Quanto è bello, cazzo la ragazza che mi ha chiamato in faccia dalla macchina, ho detto a me, no, al cazzo. No, aspetta che sto accendendo il telefono, perché c'avevo aspetto che stava a caricare. Caspita, è bello. Sai che c'è la derrata pigliara? No, ma è bello, una bella linea. Sì, molto bello. Infatti chi mi prende adesso? Il mio 2 più 0. Vabbè, è già stata più grande. Tra un cavallino e una giara. Eccomi. Con chi stai parlando? No, già, le ho mandato la foto. Ah, di Cipe. Maya Caterpillar. Tu sei burgoso ed è Maya, lo stesso a casa. Poi non ho i dolcetti, vado in mare a Ugami. Ma qui poi c'è le mie derivati. Adesso che lo so. Strumento lo porto. Bene. Eugenio, boh, me l'ha detto poco fa. Forse dal telefono anche lui, non lo so. Me l'ha detto, gli ha sistemato, ma oggi l'ho preso così che va via praticamente. Ma mi ha detto anche il capo, il PL, così. Come l'ho detto io con Sandro, sicuramente non c'è quei PL grandi che hanno quella lavatatore, poi la carta l'ha messa lì dentro e poi ha avvittato. Invece lui gliela infilata e la sala è uscita. E qualche filo andava così. Vabbè. Rullè di giorno che a me, ma c'è l'idea, ciuppa, frittelle. Non c'è il PL, la cantona, c'è il PL, facciamo le diciamo la porta di avvicinare sul campo, diciamo, saldato, e poi vabbè c'è la manchetta sulla parte da qua, la cantona, la porta sul palafango, con il culo e sulla scarpe. Sì, va alla grande, già va bene. Avanti, io Gianni. E io la dico che sto guardando le foto. Cappa, cappa, è rotta a piniera, vabbè, Marco. Manco me la intendi, sto pranzando, ma io sto cenando, sto pranzando. Non lo so. Come si incendia di Città Mercato, cos'è? Una tragedia di base, preso a fuoco Città Mercato, ma come ci siamo in sicurezza e ci sono lì dentro, questo ha preso a fuoco. Io, beh, anche l'aria già chiamato le sue amiche, quindi non è nulla, nessun danno, niente, solo del fumo e basta, quindi, ma pare che sia già qui da poco, ma anche l'Italia, per carità, ma vabbè, vabbè, vabbè, ma sei morto Marco Fois, stavo guardando i necrologi. Padre Vincenzo di Nino, quindi che c'hanno il caravano. Sei sono San Giovanni, se lo conosci, ma qui ci vuoi conosci. I Giovanni di Chioschetti, il padrono della Vana Club, Piazza dei Cini. Nato in galera. Per quello che lo sto dicendo, cosa c'è che fai tu? Centro in galera. Non c'entra niente a noi, vabbè. Capito? Io sto parlando del padre che è morto, siccome lo conoscevo, quindi ho guardato i necrologi, dove chi era quel signore anziano, che tra l'altro dice che abitava in via Pascoli. Io ci ho abitato per 4 anni, ma non mi dice niente la foto. Io sono andato a mettere a posto il cancello a casa sua, lui è un padre. Oh, così è, vedi. Va bene. Gianni, hai finito di guardare le foto? L'S9 MB+4. Che non lo senti bene? No, vabbè, io ormai mi sono abituato. La vicinanza mi fa la voce un po' saturina, ma comunque abbastanza chiaro. No, io gli ho detto, ma mi piace più quello, come si chiama l'altro, Antonio? 3009? No, il Cone 4000 quello, fecelo tu, perlomeno. Quello c'è meglio. Adesso il minuto di batte a zero. Ma è fatto così che metti più quanto, cosa mi porti qua, ci posso fare io, poi io. C'ho la voce anche rauca io, la verità. Addirittura che con Kim non usciva così, non ricordo i club, dicevi tanto uscivo male, eccetera, eccetera. Okay, quindi è questione di microfono amplificato che ho io, se metto questa delta qua, esce come il Connex 4000, sta uguale. Ma è diversa la connessione, Antonio? Purtroppo sì, è diversa, sì, non è manco migliorata addirittura, è diversa. Va bene, manco per il Connex, voi fate passaggio da uno all'altro, ma è diversa, c'è un attacco al microfono, ma è diversa la connessione, purtroppo è così. A questa è l'S9, Antonio, il microfono originale. Vabbè, io ho il microfono originale, suo, ma c'ho quello della... Sì, c'è. Mi ha fatto l'estate Stefano, gli ha fatto una tavola, ma tanto bravo. Ma non mi ricordo se è manca, cavolo sia. Ma originale, attenzione, non originale suo della Magnum, cioè un Midland, quei CPE, quella così, me, esso ciò. Ah, vabbè, come ce l'avevo creduto io, non sono la Midland originale. Ha lasciato anche lui, come usciva benissimo lo stesso, perché dava problemi. No, per farti capire la differenza, problema perché ti puoi aumentare i toni, i bassi, quindi ti fa la radio molto cupola, a me. Cana, puoi tendere le ballacche. Ma vabbè. No, lo vento, me lo sento molto bene con il Connex 4000. Esce veramente molto bene con la radio. Questa sì, rimane un po' cupola, però mi piace di più. Più bella, più forte, ma è sicuramente come ha detto lui, Salelta va molto meglio. Sì, lo voglio sapere. Sì, non riesci molto meglio. Sì, aspetto, se mi vuoi che posso fare, non è quello il problema. C'è una decina, la potenza che sono maletta. È uguale al 2009, mi dentro, non è che sia diverso dagli altri adesso l'opera. Non cambia nulla, è uguale. Tutto aspetto, ancora ce l'ha qui. Tranquillo che aspetto tutto. VR13, così è. Come che si chiama VR? Ah, ecco, ho capito. Non lo conosco com'è. Ce l'ho avuto, ma era già modificato, il mio già pronto, e quindi non usaccio, capito? Vabbè. Ok, Gianni. Eccomi qua. Stiamo guardando le foto che mi ha mandato l'amico qua. Oi. Me ne manda, ne ha bisogno. Ho messo un impegno in scura. Foto da maniaco. Allora, piccole maniacali, masochista, pulito, o con la massa ce la fissi. Figurati, qua adesso sono bastanti, che microfono normale. Va bene adesso come microfono. Questo è molto meglio. Allora, cioè, le cose non le usi, questo va molto meglio. Non è cupa la modulazione, si sente appena riesco, va bene. Sto usando un microfono normale a tatti, quindi dove il microfono originale solo di questa parte del magno, ma se no, faccio io però, è americano, marino americano, con la bandiera americana. Buongiorno anche a lei, beh sentito, guarda, domani vi metto il microfono delle colle 4000, guarda che cambia tutto, l'apparecchio, ma te lo dico io. Sì, oggi ce lo fai ascoltare l'apparato col microfono che ho ordinato a poco, quello che avete messo a posto. No, non pensavo che l'avessi in Italia, c'è proprio sentito. La puntera, Goya, Marco, finito di mangiare, la tappignare. Un uomo è a mangiare a testa giù, Gianni, è da bel tempo. Che antenna c'è nel camper? Che non ti hai messo quella corta corta della Sigma, la... Ma la PLC, quella tanta cosa, 800 Minion. Vabbè, andava bene, io te lo ricordo che me l'avevo fatta autocostruita. Ho copiato le misure e cose, l'avevo autocostruita, andava bene a tutti i bagni. Macchina sì, ma il camper è diverso. E bisogna trovare un punto per fare massa nel camper, ma in alto non ce n'è, nessun punto. La migliore in assoluto è quella che io ho dato a Pinocchetto. Sì, anche quella. Ma quella è stato un esperimento, isciuga. L'ho buttata nella sacciuga, da per fuori sparlavo con sasso, allucinante. Abbiamo fatto le prove a fianco, a Piazza dei Segni, aveva impiegato, col parete aveva impiegato i piatti, un 10 antennoni. Non certo, esci, questa c'è vita mia, lo so solo cosa trae. Allora, Roberto Quadrato, c'ha il campo lo stesso, c'ha l'antenna corta, è nera, a molla, mi sembra sia a molla quella sua, nel fianchetto lato guida, proprio in alto, e io quando va a sentino, a volte l'ho sentito, l'estate esce bene. E gli ho detto, devo sentire qua, io sono più lontano, capito? Perché io mi ricordo il giorno che ha fatto le prove, arrivi a Santiago Trenoghi. Quindi ce l'ho come riferimento a quel segnale, ed è la linea piattale di casa sua, capito? Quindi bisogna fare la prova, vedere quanto arriva qua adesso, ma comunque se hai fatto quel lavoro, sicuramente era quello lì che andava male, dai, con tre distazionari e con l'UBL che tocca e non tocca, non è che puoi uscire bene. Avanti, già. Comunque io, quella che ho avuto che andava bene, quella che ho costruito io, andava benissimo. Arrivavo a Santiago Nove, a Sasa, 9.5 con quella tendone, solo le palatti non sentivo, cioè non mi sentite, no, andava bene, e in aria libera andava benissimo. Oh, aspetta, a me era la 75 cm, era piccola. Ah, con le mani del buccio, non ho mai trovato. Non sei bianco invece perché non capo bianco. Tu arriverai a San Camillo e Ciogam, perché invece tu casa io faccio sentire. Così. Vai, cosa lontano, che non lo muoio un attimo quel trasatlantico, e fai bene, è una bella macchina, una barca di soldi, stai scherzando. Aio, entra, esci da quella porta, entra nella porta del camper. Io non so dove abita, sì, se non so dove abita Eugenio, lui non sa dove abito io, ma io già lo so dove abita lui, capito? Quindi è sotto, perciò, però io lo sentivo Santiago 3 con l'antenna messa male, vediamo adesso. Ehi, era ora. Dica, mi sta usando il 2009 con qualcosa, con Salerno. Cazzo, mi sono spaventato tanto. Questo è una bomba, una bomba. L'unica cosa da provare ti rimane adesso solo il Salerno sulle serofe. Però questo è bellissimo, la modulazione, come te l'ho già detto. Già metto il Salerno nelle serofe, le metto più quattro, le metto di nel Codex 4000, così ce l'ha bene. Ma se sono rispetto del Kevlar, mica c'è un garage, ti ricordi? Usavo le MP4, nel Kevlar uscivo tutto quanto cupo, a giorni uscivo bene, a giorni uscivo male. Quando ci ho messo Salerno, ti ricordi, uscivo benissimo, era una bomba. Ma sa cosa? Capsula diversa, Salerno, non c'è da fare. Questi partner vanno bene, sì, però la modulazione è sempre ida, o è barattolosa, o è cupa, capito? Questa è bella, questa è chiara, pulita, forte, molto meglio dell'altro. Vai Massimiliano, lasciamo bianco per Eugenio, vai. Oh, ancora porto male? Sì, vabbè, se la porto male ero già via, va pure bene, porto male. No. Tu vedi? No. Mi sono entrato io con un genio, ma detto perché stai facendo così male? Male. E non ti tocca di un day. E c'era il MC60, sempre quell'altro, che stava gracchiando. E via. Ha giocato un colpo e sotto si è ripreso. Io lo apro. A dare una pulita, buona, fare cose a cavolo, cioè. Mo. Vabbè. E così è quello che ti dica. E lo dico, lo facevo anche a me, che l'ho messo per contatti. Ah, io l'ho messo un sacco di volte già, No, questo è quello attaccato al 440. Nel 430 io ho l'altro microfono dentro l'armadio, che è più vecchio però di questo, capito? L'ho preso usato. Invece che lo metto a vedere se sta andando bene, invece questo l'ho messo io a dire. Stava andando bene, guarda, appena sono entrato stava di nuovo gracchiando. Allora l'ho rimesso dentro l'armadio e mi sono messo quello che uso sempre. Ah, non sono Massimiliano, sono dimenticato l'altro giorno, infatti non lo vedo. Non lo so. È nuovo meno, però mi ha sempre difettato quelli M60 sul 430. Infatti hai visto che sul 430 ci ha agganciato quello l'MD1B8. Capito? Le connessioni sono simili, vabbè c'è l'adattatore. Però quello lì devo vedere cosa c'è, domani che sono libero magari me lo controllo, ora se ci sia, come dice Gian, un po' di sporcizia, oppure che stia andando a farsi fottere. E magari prima soffialo con quello spray, con l'aria spray, se ce l'hai, più basso. Sì. E ogni tanto l'elettricista già li ringrancio io già, tanto quella che ci fa l'elettricista nostro, non spray per contatti, K3 che compra la Elcom, mi sciuga, mi pare 15 euro o 17 euro, ma infatti quando dico già, ma lei è un po' di spray per contatti, mi mettere poco, che costa un bel soldi quello, e Natalia si è girato e te la giù perché in macchina, vai a casa. Ci vedo che io mettere poco, agli ultimi si è trovato a comprare. Perché ieri proprio intervenuto su una pompa rosatrice dell'ipoclorito che aveva preso acqua, quindi l'ha pulita e ha messo questo spray. E gli ho detto, ma ha cambiato, già finito lei quello là. E cosa ne so, l'ho perso. è toccato a vederlo e comprare un altro, perché uno c'ha la scritta rossa, l'altro c'ha la scritta celeste. Io ho aggiunto la scritta rossa, ma non inviglia più però. Tu già, se non ti dà manco un altro rotto, un altro sonante, non sei quanto rotto, ma lui fa il carico alla Elcon ogni 15 giorni, un altro sonante, fascette, gli spray, tutte le cose che le servono, tutti i connettori, i mammut a barre intere di tutte le misure, già me li dà quelle cose, già dammi, altro grande domanda, un altro sonante, no, costa un bel di soldi, c'è un altro sonante di tutti i colori, tutti. Ma quello buono, quello che tiri pare ingloso, pare un altro vulcanizzante, non te ne dà. E allora come si gira, zio Claudio, tac, in grancito. E oggi è andata a Borgia di Reni a pigliare un gamper. Tu, però avete partecipo, guarda, c'è con l'acqua che si giuria, che sono solo a poco a cagliarsi. Non ce lo so, ovviamente. Non ci sono mai andato, ma glielo so, ovviamente. Siamo visti una volta a casa della mamma di Giampaolo. Capito? Ci siamo visti sotto casa di Giampaolo. Ma già, già ci conosciamo. Beh, genio! Cos'è, ma sì? È brutto, già lo so. Tutti i tatuaggi che fa. Cazzo, io non volevo dire io, brutto. Tu immagini Antonello Pomponio con il tatuaggio come quello che esce a uomini e a donne già, tutto nel collo, nella testa. Ma se ti vedo non lo faccio tatuaggio. In faccia, alle guance. Cazzo Antonello, c'è uno che è lì, io purtroppo devo guardarlo allora in pranzo perché lo guardano qua, capito? Quello che esce a croce di la Maria del Filippo. Cazzo va, è pelato Antonio, tutto pelato. Però c'ha tutti i tatuaggi nella testa, nel collo. Sembra che abbia i capelli. Sì, l'avevo visto anch'io. Lo guardo a Simone ogni giorno quel programma. Guarda quello, il segreto, dopo il segreto c'è l'altro. Insomma, tutta la sera mi... E quelle roba lì. Eppure la sera addirittura. Pratica siamo divisi, io me lo guardo dove c'è il baracchino, il televisore lo si guarda in camera sua. Io mi guardo poi e cerco ieri notte fino a mezzanotte e mezza. E quelli sono i programmi che guardano le donne, tutte le donne guardano quelle cose, segreto, telefilm. Barbara D'Urso, un D'Urso che bonga in capo, altrimenti antipatica. È napolitana, ci credi milanese, Edda. Passa via. Ma non è male, ancora non è male. C'è bisogno di vecchi, a te punti luce. Alle ha da rubare la mia parola. Ma a me mi fa ridere l'Emma, io lo guardo la domenica, allora che c'è l'Emma. Mi fa troppo ridere. Esta di donna! Essere inferiore! Che è malato che da un vivo, che è meraviglia. Sente la quante domenica, ha detto che la domenica va troppo male, perché non devo passare a perdere tempo con una scema come lì? Brutta cicciona. E non l'hai visto quella che è salita la mare di quella ragazza grassa che lui gli ha detto quella cicciona, cazzo la mare si è alzata, non è per me che fare così mia figlia, l'ha presa a schiaffi, lo sai, no perché... No, ma se avete la mia moglie, l'avevo tentato pure, voi la trasmissione mi avevo cicato lo gordo. No, aspetta, prova a venire avanti. Ora, tu immaginati che da Santiago 3 che mi arrivava in quel fosso, sì, Santiago 7 con picchi a 8. E già lo doveva bene, si è rinato, Gianni. E io va bene, ma ecco, non viene messo. No, io non lo sento. Vabbè, comunque va bene, dai, è meglio di... Prova, perché... Poi mi arriva a 5. Che a me 7 con picchi a 8, prima mi arrivava a Santiago 3. A me arriva a 5. Vuol dire che ho appena appena magari più in alto, ti vedo di più. Antonello è un po' più indietro, quindi ti prende un pochino di meno. Però 5 è già un buon segnale, eh. E tu rimane un po' più dietro di me, capito? Io invece ti vedo proprio perché la cantonia dei Pidriati, quindi l'ingresso è portatore, io lo vedo. Alla grande, complimenti al cuoco. Dici, meglio di prima, va bene. Però non sento variazione. Anche io, lascia tutto così. Ci conferma, KK, va bene. Adesso ti sentiamo quando sei in movimento, oggi. Prima arrivavi a livello agli Uglio, adesso finalmente arrivi a livello, come si dice, Lupa Grecia, vabbè, ho detto questo contratto, avanti già. Ehi, a proposito di Uglio, adesso non so, un minimino che devo controllare qui. Qua, stasera tu l'hai mangiata ieri, stasera qua pizza, gelaria e frittelle, stanno facendo le frittelle col bimbi. Cimiglia, mi sa roba che mi hai regato, caput, caput, caput, caput. Ne ho proprio un assaggio, perché ha fatto la favata Anna e quindi un pezzo ce l'ho messo dentro, ma un burro, una cannonata. Il resto con la spiratina calda. E beh, dai, bene stai. Capparrocero. Che carina è. Capparrocero. Addio Claudio. Ah, ma per tu io lo devi dircelo a me. Non so che stai scherzando, me lo devi. Ah, ma per tu diglielo però, capito? Diglielo ogni tanto. Ehi, ehi, siamo qua, vai già. Ti ci siamo detto Gaia. Già. Ah, Gianni si è allontanato. Dai, oggi ti aspetto, metti a posto il camper, dai, sono qua, riprendi Antonio. A tutti i gaggiù di Citi. Chiamate, dai, sono qua. E Gianni si è allontanato un attimo. Marco, hai finito di mangiare, ti ci mangia nei pipistrelli. Sento un po' che è arrivato la tappagnara. Ah, da te stava venendo. Ehi, ehi, ehi, sono qua, dai. Attaccate todo se puoi chiamatemi. Si è sentato anche Massimiliano un attimo. Finalmente sei riuscito a far uscire quel pipistrello che... Andiamo a ci vedere. Vede Graziano a Bosi, PMR, sempre a Bosi e... Non mi è sempre acceso. Non mi è sempre acceso, ma volume basso, ma è sempre acceso. Avanti oggi. Mi ha parlato la bocca, mi hai tolto. Ma indiani, a venire indiani? Ma cos'è una sciabola, cos'è? Ho visto un documentario, però no, non sono preparato in materia. E come fai a entrare lì? Cosa ci vuole? Permesso speciale, no? Furti. Ah, sì, sì, ho capito. Ah, pensavo che mi fottendi. Tu come ti rivi tutto, oggi, da Gojo, da indiano? Allora, adesso, raga, mandami qualche foto, ma non ce l'hai il mio coso su WhatsApp? No, oggi non è mai capitata l'occasione, segna Diru. Ehi, così mi metti su WhatsApp, nel caso capiti qualcosa, c'è qualche bella foto, me la mandi, mi piace a me vedere queste cose. Bello sì. Ah, io segna, Massimiliano, ma oggi, segna, 339. 33 69 129. Mandamelo anche a me, mettimi su WhatsApp e mandamelo, la voglio vedere, non la conosco quel coltello io. A mano, addirittura. Mi giri a Massimiliano. Inseriscimi sul gruppo oggi. Così se c'è qualche foto bella mandamela ogni tanto, mi fa piacere. Iscio Maria, madre nostra, fate da dritto, vai da una sciabola che. Ma così grande, ma c'è, dove ce l'hanno legata? Cos'arete, siete di razza romidologa. C'è la tratta di per tagliare i capi, burro. Ci sono indigeni, mi attento, tagliano la ceta. È un documentario ho visto di quella roba lì, una volta lì su, come si dice, ma non me la metto. Ah, eia. Ah, mi dimmi, ehi, Eugenio mi ha mandato, cioè, sei già su WhatsApp, Eugenio, ti avevo già io, quindi vedi che ce l'ho io il numero tuo, se tu non c'avevi il mio, mi è apparso in automatico, Eugenio PT, Porto Torres, e questi sono fatti, il rivestimento chi lo fa? Allora, bello, veramente bello, molto bello. Vediamo se c'è Gianni con pipistrello. Oh già. E mandamela di nuovo, no, non mi ricordo come sono questi masai. E poi mandatemela questo masai. Allora così mi preparo, vado a portare a Pippo. KK. Ciao Iaia. Andiamo a combattere. Ciao Tato Tia. C'è gente che ne parla male dell'Africa, ma secondo me è il posto migliore in assoluto. Ah, bello. Ma che sei barretto, Duci? Un ranger, vai. Belli. Sono persone normalissime. Pensavo che erano indigeni. Sugar. Te la giro io, Massimiliano. Mandagliela tu. Belle, belle foto. Fatte con telefonino oggi, oppure con macchina fotografica, e poi scaricate sul telefono. Beh, si vede la foto, se si vede pure un terreno. Bella, sì, bella foto. Ah, ecco, grandita si vede. Ehi, ma qua cos'è di più giovane? Gli è rubattato. È migliorata però, che serve il visino. Basta fare un trans. No, ma ci sono. Sto la faccia a trans. Tu cosa c'hai in mano? Un mangaglio, cosa c'è a fare? Un ombrello, va per l'acqua. Ah, non si vede bene perché dentro la custodia sembra una baracqua arrotolata. Bel postino, non ci picchiano. Belli, belli, belli. Oh, sono Cimiglia, che bella questa capanna. Sugar. Girala, girala Massimiliano, che bella! Esci, una bella in campagna sta cosa, che... Cazzo, già è bella da fuori! La barra sta di veranda che fa Massimiliano, e lì è posato Eugenio. Esci! E cos'è che c'è un po'? Figura dei due, chi c'è nella nauta? Ha fatto a pietra il basamento, sollevata, no? Manda, manda! Bellissima Massimiliano, guarda che verandina che c'ha, tutto il legno, abba, con la ringhiera, tutto, bella. Ma queste chi le fa? Loro le fanno? Cidiali, insomma, il legno dove lo prendono? No, non è possibile, non è possibile, oggi. Ma chi c'è? Guarda queste panche, qua. Allucinante. Allora, vedi, ci sono di nuovo le altre due lampade appese, e vedi come va giù. E oggi tutti vuole lottare, vabbè, ma loro no, quindi si proteggono con queste tende, con queste cose così, capito? Che poi è bellissima la zona letto così, molto molto bella, asciuga, favolosa, guarda questa panca, guarda il letto Massimiliano, si vede proprio che è artigianale qua. Tutto fatto in legno, il letto, micidiale. E la drammazza! Per il trasporto sia che ne bisogno della patente. Dani, la polizia dei carabinieri, la polizia stradale. Tu bellissima, l'ho mandata in aria, che è già uscita, ma ha detto una cosa favolosa. Il Kenya? Nel Kenya giravano i film western così. Ma è normale, Massimiliano, stiamo parlando di zona. Di zona primitiva, capito? Di zona che non... Cosa vuoi dire forse? La luce. No, questa non è... Questa non ci credo. Pensavo fosse un mezzo di trasporto. Guarda. Ah, ecco. Gesù, quanto è bella. Al contrario me l'hai mandata. C'è te lo giro a cabattere da breve. Far vedere che marca è. DH80, questo è la Kenwood di me, oggi tu, mia dov'è? Dov'è l'angolo della Kenwood? Ma io non l'avevo visto, io ho visto DH80, questa la conosco io. Sì, allucinante, bella con la radio, bella con la radio, quando è uscita era favolosa. Bella, l'ho vista in una mostra io, l'ho vista in una mostra vintage. Molto bella, a te immaginaci, è ok, vuoi, c'è la patente che... Cosa sono gli scellini lì? Me lo immagino, non dire, molto bella quella vista mare anche, cos'è, una spiaggia? l'ha decorata così, voi o loro? È strano che Massimiliano. Ma ho troppo che pensavo che fosse qualcuno di loro il costume, ha detto, ma pure i chimici si andano a mare così. No, no, ma è veramente pazzesco. Pazzesco. Ma ecco, mi stai mandando l'altra. Sì. In mezzo alla cappotta. Questo guarda, ha la stessa misura di un 140 quella radio, capito? Guarda il microfono, guarda il microfono. Quel microfono ce l'ho io. È quello del 701, del veicolare che ho io, Massimiliano, guarda, uguale. Sì, ma guarda Massimiliano quello che ti ho detto io, come i camionisti, vedi che c'ha il doppio aggancio, quindi non lo tiri tu il connettore, non sono macchino. Sì. Non sai cosa fanno, quando stanno camminando loro la piegano e l'agganciano, quando invece sono fermi la molla non rimane dritta, perché se ti metti a camminare con quell'antenna, ce la conosco quell'antenna, è un'antenna HF, è uno stiro praticamente di un'antenna verticale, che è 2,75 m, capito Massimiliano? 2,75 m, e c'è un mollettone grande grande, loro quando camminano la piegano, la tengono piegata, capito? E invece quando si ferma la tirano dritta. E dirà per uno guarda anch'io. Sì, sono la costella queste. Sì. E sicuramente sono buone, ma ci vediamo. Alla grande. Va bene, dai, raga, che io vado a portare il cane. Se mandare qualche altra foto oggi, no, se non mi dispiace. Se ci siete ci sentiamo dopo, eh. Altrimenti ritenetevi salutati. Ok, saluti anche a casa oggi. Ci sentiamo Massimi. Domani sono libero. Domani mattina ho qualche impegnetto, ma comunque nell'arco della giornata sono libero. Ok. Eia. Belle le zebre, abba. A guarda come ti muovono anche i baffi massi. Pure di giraffa gli dice zebra. E la giraffa, guarda come mettono le gambe per abbassarsi. Hai sbagliato, dai, cazzo, ti sei appicciti. Ah, ti ho visto questa goccia appannata, capito? Tra il bianco e cosa, se c'è cucina che balla che. Va bene, a dopo signori se ci siete, dai. Grazie per le foto oggi. Bel servizio fotografico veramente, complimenti. E vabbè, sempre trattata voi, quindi. Così si mettono, capito Massimiliano? Perché se no non ce la fanno a inchinare tutto il collo di quanto sono alti. Allora apro le gambe proprio così a 45 gradi. Un attimino, arriviamo subito. No, arriviamo qua, un attimino. Break. Giovanni, non vanno. No, ho controllo la radio di Santiago, ma vabbè Massimiliano, sto provando un apparato. Cava, andate. Bene, già, va bene, un po' diversa dalla tua, sì, sei De Marco, però va bene la radio. A dopo, signori. Sto provando un microfono nuovo, guarda se va meglio questo, la somiglia. Superiore, questo è un microfono 5. Allora così, ma somiglia, un rivoltore e bambino. Stavo regolando, aspetta. Un po' guarda così. Aspetta, ecco. Perché è amplificato forse di sopra. No, guarda. Così va bene, sì. Cava di gara. Un metallo. Forte, no, perché io ho un'altra voce, Marco. Il tono quello va bene, guarda, così a, aspetta, così a due, così non ce ne vuole tutto, così a tre, così a quattro, così a cinque, qui a sei, sette, otto, nove e dieci. A sette così, guarda Massimiliano. Vabbè, facciamo una prova, se uso il microfono normale, vediamo se va meglio. One, two, three, four, questo è normale, questo qui è normale, guarda come va. È il suo questo qua, è normale, non c'ha nulla, però va meglio. Sì, questo è molto superiore. Sì, con questo come ascolti, la gente è più forte, sì, è molto meglio dell'altro. Sono io, no? Anche se mi compro un bucano, tutta la roba di radio mi ha legato dall'Africa, faccio un negozio qua. Io me lo guardo per l'Africa, non mi applicare. Spero che lo faccio. Chiama Loris, Loris Brother Africa, l'affare professionale, questo aspetta. Lui è lì, quello che è di Gattura, scusa, la faccio. Sì, con me, giusto? Mi dà... Saranno tanti questi secondi e c'è una proposta delle parte, questo. Allora, l'altro video... Il sole, i quattro gruppi, quello, dove ti sento farlo in piscina, forse? Ah, ti ho visto, adesso lo guardo, e la bella, ti ho visto il cappellino, bella mossa, già, dopo me lo guardo, i brichetti, un banco, un pari, vabbè, e dove sei stato tu, quindi quale foto mi stavi mandando, c'è quel signore, arrangiato, pelato, una sessantina d'anni, sono quello uno, bello, e per il doma, queste marchettine se ne hanno voce sulla partita, ma guarda, ma chi può da fare, ma chi può fare qui in questi così qua, che parla anche il loro dialetto, giusto? Hai detto guardando la mente, ci siamo. Sì, anche da altre parti comunque, questo per questo, prendo la pagina sua. Forse qui noi in Sardegna ne abbiamo, o in Africa, secondo me l'Africa loro. No. Io buca di non abbiamo un'unità di guardando questa cosa, ma ho letto frugando un po' la faccia, e la faccia è tutto, non è che devi dire tutto da sai. Poi quell'altra tribù che c'è di Kenya, dove si fa il collo, sono fatto un gruppo, si è andato quelli che si fa il collo, chi si è toccato già queste notte, chi fa sposato, chi ha un tanto, ecco, sono rimasto le capaci, ecco, passano le campane, là. Perché poi quando sai 10 giorni lì vedi queste cose, rientra a casa dopo la paranoia. No, c'era il martedì, dalle 6, ma dalle 5 e mezza, alle 7 e mezza, giovedì, mezza, 7 e mezza, e sabato mattina, fra, come si chiama, la regione privata, che adesso è quella comunista, della Cina americana, quella di fronte alla scena. Avete chiamato qua? Ehi dai, stiamo parlando in verticale. Eia, non so se ci sia l'eco. A me non piace, ma a lui piace. Oh? Piace, dai. Eia. Buona cena allora, Massimiliano, dai. Vi salutiamo adesso perché tanto qui non... stiamo parlando qua in verticale, dai. Ciao anche Eugenio. Mi fa piacere che hai risolto per il camper quel microfono là, ma è abbastanza acuto, com'è? Io non l'ho sentito, me lo fai sentire domani, dai. Stanno parlando là. Sì, ce l'ha quasi troppo. Ci sentiamo domani, se qua chi io, ciao, buonasera, buon di tutto, adesso mi continuo a guardare fuori queste foto, video, parla in radio, ci sentiamo le prossime, là. Magari, lo già è vero. Allora, dai, buona serata, buon di tutto, anche quelli che ci stanno ascoltando, ciao. Ah, salutami a Pippani quando lo vedo.